io direi che possiamo, cosa dice professore, iniziamo? Ma certo. E siamo contenti di ritrovarci qui tra i nostri scaffali dopo qualche mese per ritrovare il professor Giorgio Dobrilla, che come sapete accanto all'attività accademica, scientifica e professionale che ha svolto anche a favore della nostra comunità, ha anche scritto parecchi libri. E là dietro troverete una vetrina con tutti i libri che finora ha pubblicato in questi anni. Pensavo proprio prima che sono 17 anni che presentiamo libri in biblioteca. Sono 17 anni di meno. Sono esattamente 17 anni, perché abbiamo iniziato nel novembre del 2007 e oggi, insomma, nel 2024 siamo qui con nuove idee, con nuovi stimoli, ma soprattutto con un rinnovato e sempre costante impegno da parte del professor Dobrilla di una divulgazione seria, onesta, a vantaggio dell'utente e non di altre categorie, quindi insomma sempre dedicata alla persona affinché possa muoversi con strumenti propri verso una consapevolezza che non è sempre così scontata, ecco, nessuno di noi ha sempre tutti questi strumenti per muoversi serenamente in un ambito così delicato come quello della propria salute. E quindi lasciatemelo ringraziare, insomma, veramente per il servizio che fa anche. E la biblioteca è un posto, direi, deputato anche per offrire questi strumenti alle persone, per fare da mediatrice, da tramite, in maniera tale che ci si possa incontrare. Non mi dilungo molto, ecco, il libro che questa sera ascolteremo e verrà presentato era già uscito, ma questa volta è con un'edizione riveduta e ampliata, aggiornata, sempre con nuovi contributi, e quindi siamo tutti curiosi di conoscere la nuova versione, come saprà presentarci con anche l'ausilio di slide. Vi invito anche a vedere le altre pubblicazioni che sono state realizzate in questi anni, perché sono tutte pregevoli e sempre molto attuali. Cedo la parola al nostro ospite, che ringrazio ancora, e vi invito a tornare, perché sulle sedie lasciamo sempre dei promemoria, delle cartoline di quello che organizziamo settimanalmente per tutti voi. Grazie. Confesso che il ringraziamento alla dottoressa Trevisan è sentito, sincero. Ringrazio anche la Yasmin, che è stato un tramite operativo di grande efficienza, si vede che è giovane, quindi tutto funzionato perfettamente, mentre io ho dimenticato degli aggeggi proprio perché non sono più giovane. Quindi vengo volentieri, perché è un clima culturale che si respira alla biblioteca provinciale, si respira raramente in altri circoli, dove spesso trovo anche della gente che mentre parlo si addormenta rumorosamente, e allora faccio il possibile per raccontare una barzelletta e svegliarla. Quindi è un pubblico d'elezione e mi sento particolarmente contento. Avendo dimenticato il mio presenter, devo usare questo, che richiederebbe di avere delle dita la metà, e spero di non far casino con questo qua. Allora, questa sì, dovrebbe essere che va avanti. Sì. Queste sono le edizioni precedenti, la prima ufficiale, diciamo, quella che aveva la prefazione di Piero Angela, mi è particolarmente cara perché con Piero Angela ho avuto un rapporto non formale di amicizia, cominciata quasi con uno scontro, perché l'avevo chiesto di dare un giudizio sul libro, non mi aveva risposto, io l'ho risposto picche dicendo che anche uno importante deve rispondere. Lui dice che l'aveva messo dentro una pila di libri, si è scusato e da lì è nata un'amicizia che è durata 30 anni. Questa è effettivamente, come diceva la Valeria Trevisan, è totalmente nuova, ci sono anche autori già citati ma con altri aforismi che vale la pena di meditare, da essere attenzionati molto, perché dentro ci troviamo dei suggerimenti nei vari ambiti della nostra vita, dall'amore alla guerra, alla miseria, eccetera. Questa è costante, era anche nell'edizione precedente, la devo mettere perché questa definizione di salute dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non la conosce quasi nessuno. La salute invece è fondamentale. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità. Questa è importantissima, questa cosa qua. Voi vedete che non è soltanto non è soltanto l'invalidità, ma anche questa a destra è un'invalidità che ci può perseguitare tutta la vita, quella di essere lì con un cartello davanti a noi con scritto fame, vi prego un piccolo aiuto. Anche questa è una malattia, è più grave da curare, da diagnosticare, è facile perché lo vediamo per la strada, ma da curare è molto difficile. Questa è toccante, perché questo è stato variamente criticato che era esibizionista, eccetera, invece un grande artista, un grande pianista, un grande compositore, eccetera, colpito da una malattia inesorabile in un'età centrale della vita. Una plasmacellula, una delle cellule che abbiamo nel nostro midollo osseo, si chiama plasmacellule, che poi diventerà linfociti, quando si sviluppa in modo indipendente, crea un tumore maligno, il plasmocitoma, che ha una frequenza del 6/100.000 all'anno. Quindi ogni anno abbiamo, ed è una malattia sostanzialmente mortale a breve o a medio termine. Non c'è ancora una terapia importante che risolva la problema. Lui se n'è accorto per anni, per qualche anno, con una diagnosi resa difficoltosa dall'evidente delicatezza del tema, non ha suonato, aveva irrigidite le mani. Quando ha cominciato a risuonare la prima volta, ripresosi da questa malattia terribile, si è messo a piangere perché faceva fatica ad alzarsi dalla sedia quando ha stimolato l'applauso delle persone. E dice il commentino mio sotto: e se imparassimo a gioire della vita anche quando si è sani? Perché non bisogna che abbiamo un tumore per accorgersi che la vita è bella, potremmo accorgersi anche un po' prima. Prima di guarire, dice Ippocrate, quindi non uno di ieri, qualcosa come 2000 anni fa e passa, prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. Perché uno si ammala, si lamenta di lamentare, va dal medico, gli dice cosa non fare e lui questo consiglio non lo accetta. Suggerimenti sgraditi sempre al paziente: se è un grande obeso, fare dieta e movimento; se è un fumatore incallito, no smoking; se è un alcolizzato, abolizione degli alcolici; se è un irascibile, cerchi di star calmo; tossicomane, combattere la dipendenza. L'urlo di Munch che vedete alle spalle è la reazione immediata del paziente: cure orrende, perché se devo curarmi alterando completamente la vita, quindi la verità sta un po' in mezzo. C'è questa bellissima vignetta pubblicata dal Corriere Medico di 20 anni fa, e l'ho conservata perché è estremamente emblematica. Allora c'è il dottore, freddo, mette davanti il paziente seduto e gli dice: niente sesso, niente vino, niente eccessi alimentari, niente fumo, niente caffè. Mentre lui proibisce tutte queste cose, il paziente seduto ha un'immagine sola: eliminare il medico che gli dice queste cose. Le proibizioni solo moralistiche, e questa è una grande verità, senza spiegazioni del medico sono controproducenti. Il medico non può dire: lei non deve fare questo, lei non deve fare quello, spiegando perché, che è nell'interesse stesso del paziente e avendo un atteggiamento non saccente, ma diciamo così empatico. È un'irritante ironia che le classi ricche, soprattutto in Occidente, tollerino magiche cure indù ormai superate, mentre in India si mobilitano per adottare vaccini moderni e antibiotici. Questo dice un grande pensatore americano, Richard Dawkins. Qui avete due immagini che si commentano da sé. Io ho fiducia nell'erba indiana afrodisiaca, pronta a cassa. L'altro, almeno i soldi per un'aspirina e un antitossico per l'inverno. È un personaggio molto famoso in America, è ormai invecchiato, ma ha lasciato il segno con le sue cose. Qui non si capisce come va, eccolo qua. Proverbio tibetano, senza nome, ma potremmo mettere dentro tutti i saggi dell'antichità come autori di questo proverbio che nasce dalla saggezza popolare. La malattia è un avvertimento che ci è dato per ricordarci ciò che è essenziale. quando stiamo male, dice, ma te, dovevo fare. Allora, aver perso le chiavi, non aver trovato la vecchia zia, aver sbagliato qualcosa, non è niente in confronto al male che ci tormenta, anche se il male non è grave da un punto di vista prognostico, ma è tale da disturbarci tutto il giorno. E, bevendo troppo, abbiamo, qui avete un'immagine abbastanza indicativa, non c'è il laser su questo, forse sì, ma non so dov'è. Beh, non fa niente. La parte sinistra del fegato, questa, è l'aspetto quasi normale di un fegato. La parte centrale è l'aspetto di un fegato di un etilista cronico dopo anni, una cirrosi etilica, che però non è solo etilica, oggi sappiamo che si divide la responsabilità a metà con la virosi, con il virus C. Il paziente che guarisce dice, come se me lo ricordo questo proverbio, quell'avvertimento, mai più vino e alcolici. Ma la memoria in tutte le cose è fragile. Quando si sta bene, i nostri propositi di quando stavamo male se ne vanno. Infatti nessuno si ricorda più delle nuove generazioni, certamente non delle Yasmin, che doveva ancora nascere, non si ricorda più che a Hiroshima, con una piccola bombetta grande come questo presenter, sono morte immediatamente 100.000 persone. Non ci ricordiamo più cosa vuol dire guerra atomica. E le bombe di allora sono 1.000 volte e anche meno, anche di più, più potenti, meno potenti di quelle di oggi. Vecchiaia, non v'è rimedio per la nascita e la morte salvo godersi l'intervallo. Non possiamo farci niente perché nasciamo, non per nostra volontà, ma per desiderio, volontà o casualità dei nostri genitori. Morire si deve. Schopenhauer non era proprio uno degli ottimisti più famosi, ve lo ricordo, e il godimento è soggettivo in questo intervallo che è la vita tra nascita e morte, perché è fatto di 1.000 componenti: cibo, amore, sesso, soldi, successo, spiritualità o criminalità. Se sono vere questi sentimenti, sono sentimenti che trovano posto tra la nascita e la morte. Voltaire diceva però, il meglio è nemico del bene, il che significa anche vivere come meglio si può senza volere di più. Ma si può non pensarci? Troppi ci riescono a non pensarci, ma hanno vissuto. Questi che hanno vissuto senza pensarci a niente, per vivere sereni, hanno veramente vissuto. Ci sono adolescenze che si innescano a 90 anni. Questa la dico soprattutto per quelli che sono over 60-70, quindi escluso la Yasmin può andare via, la Valeria può andare via, parliamo di quelli avanti. Questa che è invecchiata non ha ricordi, non ricordo l'adolescenza, questa non ha vissuto, non ha pianto, non ha amato. L'altra, io sono invece rimasta me stessa dentro di me finché ho vissuto. Un esempio di donna particolare, difficile da capire, da amare sì, in senso filosofico, è la Alda Merini. Sono nata il 21 a primavera. Da allora Alda non è invecchiata mai, nonostante manicomi parecchi, soprusi, sofferenze sentimentali multiple, in cui era grata anche di quel poco di felicità che le poteva dare una vita così travagliata come la sua. In sintonia con la Marina, altre donne intelligenti, comprese quelle che dirigono la biblioteca di qua, di Bolzano, la Mae West, la Dickinson, la Roosevelt, la Simone de Beauvoir, tutte donne che hanno lasciato una traccia importante nella filosofia. Si può vivere fino a 100 anni se si rinuncia a tutte le cose che ti fanno venire voglia di vivere fino a 100 anni. Woody Allen è sempre intelligente, sempre sarcastico, bel compleanno questo, 100 anni, ma il pericolo di non vibrare più vecchi come siamo, un po' rimbecilliti, se siamo rimbecilliti, non è detto che lo siamo, non vibrare più nemmeno ricordando le cose di cui si è progressivamente rinunciato. Su sintonie però, gesti affettivi, abbracci, carezza, un'attenzione, Woody Allen ha poco da ironizzare, possono rimanere ma solo dopo una vita d'amore. Amore con la A maiuscola, perché se è un contatto commerciale il discorso non vale più. Morte. più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto. Shakespeare, l'avevo già fatta vedere questa in una forma diversa, ma effettivamente è toccante, perché pensare l'ultimo istante di sapere, avere la coscienza prima di perderla, che moriremo, e non avere neanche una mano da toccare o da vedere che cerca di aiutarti, è la tristezza infinita. Non esiste morte dolce per chi muore senza il conforto di un viso amato. E questa, purtroppo, da quando qualche anno fa l'avevo proiettata, siamo diventati sempre peggio. Questa è un'altra cosa inaccettabile veramente, e che passa inosservata quasi. Sappiamo tutti che non dovrebbe esserci morte sul lavoro. Uno lavora per guadagnare, per mantenere la famiglia, per istruirsi, per progredire, ma che per questo qua deve anche morire, solo per avere questi privilegi essenziali deve morire, e di solito in un'età centrale della vita, perché è difficile che sul lavoro muoiano vecchi, sul lavoro muoiono giovani. Ho messo due esempi, ma perché dovrei fare un'enciclopedia di esempi toccanti fino a ieri, fino all'altro ieri. Mi sono limitato a due esempi più noti. Uno è questo: nel 2007, in 5 delle acciaierie Tissa in gruppo, ho messo anche i nomi, perché di solito sui giornali si ricorda malapena l'evento, lo si diluisce nel tempo e non lo si ricorda più, ma i nomi di quelli che ci hanno lasciato la pelle non hanno neanche il merito di essere citati, non hanno l'opportunità di venire ricordati oltre alla commozione. E sono questi: Acciaierie ThyssenKrupp, 7 morai muoiono investiti da olio bollente, la condanna definitiva attraverso lotte giuridiche contro avvocatoni miliardari, quelli della ThyssenKrupp, no? 6 condanne definitive solo 8 anni dopo, nel 2015. 8 anni per fare giustizia di 8 persone che a questa età che vedete hanno perso la vita. Da gennaio a ottobre 2022 si contano quasi 1000 morti sul lavoro. È un'epidemia. Idem per questi ancora più, questi per la superficialità degli stessi, per mancanza di segnaletica, eccetera, per spostare una via, per non accorgersi che arriva il treno, eccetera, le banalità più sconvolgenti che rovinano la vita di 5 famiglie o 6 famiglie. 5 operai travolti dal treno che viaggiava sulla linea ferroviaria Torino-Milano, non una via secondaria che si usa poco, una via centrale. Questi lasciano la pelle perché manca l'avviso che ci può essere il passaggio del treno. Sentimenti. L'amore è la poesia dei sensi, o è sublime o non esiste, con la E maiuscola. Quando esiste, esiste per sempre e va di giorno in giorno crescendo. L'ha detto non un romanticone qualsiasi o un drogato, l'ha detto Honoré de Balzac ancora 100 anni fa. È sublime per Balzac è quando la sensualità viene consapevolizzata e poi mantenuta. Uno si rende conto di essere felice, di essere legato, deve rendersi conto. Se vive senza rendersi conto, a un certo punto è destinato a diluire questo suo sentimento. Per cui la manutenzione di un amore vale più di una inaugurazione. L'eccellenza è rara in ogni ambito, non può non essere rara anche nell'amore, essere sublime. Anche in amore, è riservata ai pochissimi che aspirano al sublime, che bisogna volerlo anche questo sublime, combattendo però su un elemento incerto, il fatto, perché uno può rendersi conto, può aderire a questo tipo di filosofia, ma se la fortuna non è con lui, non lo aiuta nel caso dell'incontro, spesso però questo fatto non si fa vedere. Amore non è solo guardarsi negli occhi, a sinistra, guardarsi negli occhi quando l'elemento passionale, il cuore, è grande, ma è anche andare a guardare insieme nella stessa direzione. Più anziani, il cuore è un po' più piccolo, ma non scompare, perché se scompare è un disastro. Pathos non scompare mai se c'è stato amore, ma si modifica e si arricchisce negli anni assumendo caratteristiche che non erano quelle di 40 anni fa, 50 anni fa, perché il corpo non ce lo permette. Ma ci sono molte, molte manifestazioni, molti gesti che esprimono lo stesso l'intensità di un amore. Il vero amore è quando ricavi altrettanto piacere dal darlo che dal riceverlo. Questo qui è uno scrittore, regista, attore USA, voi vedete le immagini che sono eloquenti. Qui c'è un amore che è stato mantenuto negli anni e dopo anni si troverà questa faccia più vecchia, lei più vecchia ma sempre sorridente e uniti. Quando non c'è questo tipo di reciprocità sensuale, non basta che uno desideri l'altro e l'altro no, per far crollare tutto, e allora abbiamo questa situazione dopo pochi mesi o anni di matrimonio, uno guarda di qua e uno guarda di là. Purtroppo ci sono dei fattori oggettivi che modificano, influenzano anche senza colpa dei protagonisti, e questi sono spesso sono vari: figli, lavoro. Voi pensate, mia nonna aveva 13 figli, mia madre era la 13esima figlia di 13. Voi pensate il tempo che aveva per sviluppare un amore col suo compagno. Lavoro, salute, censo, differenze, cultura. E allora arriviamo a questo tipo di rappresentazione dell'amore, che è di una tristezza infinita, perché questi hanno davanti, se non si divorziano, non ha, e anche questo è consentito solo agli abbienti, perché i poveri non si possono divorziare, non hanno dove vanno a stare, questo è, allora siamo messi male. Cultura e ignoranza. L'ignoranza è la radice di tutto il male. Platone. Niente è più pericoloso dell'ignoranza. L'ho rimesso, infatti lo cito, che l'ho già citata, non è per vendere merce già venduta, ma perché è fondamentale sottolineare che lo stesso pensiero l'ha fatto Platone 2000 anni fa e Goethe l'altro ieri. Quasi 2000 anni di saggezza buttati al vento dall'Homo sapiens. Cosa ci serve questa saggezza se dopo 2000 anni continuiamo a fare gli stessi errori? E questo, finché non arriviamo alla consapevolezza di questo, saremo destinati in qualche modo a perdere molta parte della bellezza della nostra vita. La ignoranza è gradita al potere ma rischiosa. Ricordavo istintivamente quando Maria Antonietta gli ha detto: guarda che c'è una rivolta, non hanno il pane, e lei ha risposto: dateli delle brioche. A farli spiritosi qualche volta ci si mette la testa, ma non la testa, la mente, la testa proprio. Combattiamo contro tre giganti, caro Sancho: l'ingiustizia, la paura e l'ignoranza. Anche questo vedete che è sulla stessa linea sostanzialmente, e questa è la spiegazione che Don Chisciotte dà allo scudero Sancho Panza, che i nemici da combattere sono i mulini al vento. Allegorico, perché cosa vuol dire? Vuol dire che dopo 600 anni i mulini di Don Chisciotte sono ancora più arroganti e presenti di prima. La giustizia non è evidentemente uguale per tutti e arriva con molto ritardo. La paura, salvo che per gli incoscienti, è cresciuta. Guerre, criminalità, anche in ospedale e scuole, diseguaglianze, tossicodipendenze. Siamo arrivati al punto che un preside o un insegnante che boccia un alunno viene aggredito, pugnalato, non solo dai giovani, anche dai genitori. L'ignoranza, conseguenza anche delle precedenti, non è migliorata ed è anche, anzi, favorita dalla distrazione di massa continua che è vergognosa, che è fatta attraverso radio, cellulari e rivistacce che occupano ormai la nostra attenzione. Non abbiamo più tempo. Voi vi accorgete anche della rivista serie o giornali serie, c'è un fondo. Se è breve lo leggiamo e lo meditiamo magari e qualche volta ce lo ricordiamo. Se supera la colonna, tre colonne, non lo leggiamo più, non c'è il tempo di. Per leggere un giornale ci vorrebbe un pomeriggio, non esiste. Mentre i mezzi di disinformazione come i cellulari, eccetera, li usiamo tutti, anche i bambini ormai per il compleanno a 7 anni li regalano. Filosofia e società. Chi si avventura oltre le colonne d'Ercole della ragione, diceva quell'intelletto superiore di Immanuel Kant, finisce col naufragare nell'inconsistenza. Questa è una frase molto celebre, noi abbiamo qui un filosofo che se la ricorderà bene, che è qui davanti a me, è in dettaglio. Pericoloso accettare la validità di un giudizio, e non solo in medicina e nella ricerca, non basato sulla razionalità. Non bisogna scherzare sulle cose serie, possiamo celiare, possiamo discutere, possiamo divertirci. Intuizioni non hanno nessun valore, hanno del valore, possono essere magari preziose, ma vanno sempre verificate ciò che manca completamente alle pseudoscienze, che sono prive di questo elemento di sicurezza. Concetto ignorato da chi non legge, non capisce o comunque non pensa, perché non basta leggere, bisogna capire, bisogna ricordarsi quello che ho capito. Ci sono delle persone che hanno molta fatica a ricordare. Una persona che io ho amato molto era mio padre, leggeva parecchio, era portato a ricordarsi poco. Doveva rileggere, rileggere, perché pur aderendo al concetto poi... Ciao. Dicevo le colonne d'Ercole, che non sono altro che... Aspetta che tiro su qua. Questo qua mi crea dei problemi, ma io non so usarli. Vediamo qua. Non so come fare. Aspetta ancora un attimo. Ecco. Le colonne d'Ercole non sono altro che lo stretto di Gibilterra, che era un po' la fine del mondo conosciuto. Questa è commovente. Credo che ha commosso tutti ed è così recente che siamo ancora commossi, ma fra un po' ce ne dimenticheremo. Invece di pensare a ciò che non puoi fare, questo è un concetto fondamentale, in cui si pecca in molti, io pecco, in questo senso, che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a ciò che puoi fare grazie a quello che hai. Perché questo è fondamentale, perché se ci doliamo soltanto di quello che non possiamo fare, ricordando quello che abbiamo fatto, saremo destinati a morire assolutamente infelici. Se arriviamo con molto sforzo a capire questo, pensate che nel 2001, era uno fra i migliori piloti, ha avuto l'amputazione di entrambi gli arti inferiori e Alex sta per morire dissanguato, si salva per il rotto della cuffia, non molla e dopo anni si afferma anche nel paraciclismo. Poi anche in queste condizioni sbatte dentro, nel Vicentino sbatte dentro e ormai questa frase qua diventa soltanto commovente e strappa solo le lacrime, perché per lui non può andare bene. Non appena nasce la virtù, nasce contro di lei l'invidia, uno dei sette peccati capitali, e farà prima il corpo a perdere la sua ombra che la virtù la sua invidia. Bastavano questi tre capolavori per scatenare un'invidia diffusa. Queste le opere immortali del nostro grande Leonardo, che come capita adesso più finisce la sua vita in Francia, perché anche allora l'Italia era poco accogliente come prigione oggi, e diceva: l'invidia è più tenace dell'ombra provocata da un corpo illuminato dal sole, può esplodere e diventare ostilità e odio. L'esempio più clamoroso è quello di Bruto, che uccide per invidia il padre adottivo Cesare e lo pugnala insieme con altri convitati e lo pugnala. Il razzismo è la paura del diverso, la persecuzione dell'estraneo, che sia l'ebreo internato nel lager, l'uomo di colore ghettizzato dall'apartheid o il Vucumpra all'angolo della strada. L'autore di questa frase è molto noto come sessuologo, insegna sociologia ad alto livello nell'Università di Ginevra e anche a Milano, e invece qui si è inserito in questo tipo di problematica. E nonostante ormai è dimostrato dopo la definizione della struttura del DNA, voi vedete che tutti questi sono molto diversi uno dall'altro, ma hanno tutti lo stesso DNA. Quindi il razzismo di per sé, uno può avere altre condizioni, mi piace più gli arabi di quegli altri, ma non su base razzista, su base educazionale, su base storica, ma certamente il DNA è il DNA, non c'è altro. Tanto è vero che questo qui, che si è preso il premio Nobel, al posto di una donna che ha contribuito alla ricerca ma che non è stata insignita del premio Nobel, è stato esautorato dal premio Nobel e il Cold Spring Laboratory lo rimuove da ogni carica onorifica e da ogni ruolo accademico. È scomparso. Umberto Saba, nazionalismo, perché lo cito Umberto Saba? Perché Umberto Saba ha fatto il tempo essere austriacante, sloveno, italiano, un triestino doc, ha avuto mille padroni e mille nazionalità. Nazionalismo e razzismo stanno tra loro come la nevrosi e la pazzia. Scienza, pseudoscienza. Questo è Giordano Bruno, che muore vivo tra le fiamme, e ti dice, nel 1500 rotti, se questa scienza che grandi vantaggi porterà all'uomo non gli servirà per comprendere se stesso, finirà per rigirarsi contro l'uomo. Teologo arsovivo a Campodefiori, lungimirante sul futuro della scienza, già secoli fa lui capiva che non si occupava di scienza ma di altre robe, che se però non la utilizziamo, quello che scopriamo non lo utilizziamo per la vita civile dell'umanità che occupa il pianeta, andremo a sbattere. E cito tre personaggi completamente diversi. Henry Ford, che non era un saggio, non era un filosofo, faceva macchine, però era intelligente, e dice che c'è vero progresso solo quando i vantaggi della scienza diventano per tutti. Cosa che, se voi pensate, non riscontriamo quasi mai. Non è per tutti. E Einstein: non esiste progresso scientifico finché sulla Terra esisterà un solo bambino infelice. Non sono eversori di sinistra o di rivoluzionari di professione. Nikola Tesla, che ha avuto una vita infelice, russo poi naturalizzato, americano, eccetera, e che diceva quello che vi mostro adesso. La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo, stesso concetto degli altri, il miglioramento delle condizioni dell'umanità. Ma cosa ci serve a fare ricerca scientifica se non per migliorare il nostro modo di essere, di amare, di far vita, di acculturarci? Lucrezio, nel De Rerum Natura, anche questo 2000 anni fa, e questo continua a rullarmi nelle orecchie, che in tutti questi migliaia di anni continuiamo a dire sempre le stesse cose e a fare sempre gli stessi errori. Diceva lo stesso che la scienza va sfruttata essenzialmente per migliorare la vita dell'uomo. Tanta gente ha visto cadere le mele dall'albero, ma solo Newton si è chiesto il perché. Questa è una bugia, non è vera, ma serve perché simbolicamente ci dice che se non pensiamo ci accorgiamo delle cose intorno senza domandarci il perché, e allora saremo destinati a restare sempre quelli che siamo. Prima o poi ogni teoria viene superata da un'altra più verace, ed è giusto che sia così, ma se intorno a una teoria sbagliata, come sta avvenendo oggi, ancora oggi, si prosegue a organizzare ricerche, conferenze, articoli, allora siamo di fronte a una pseudoscienza. Lo dice Pigliucci, che è un filosofo divulgatore scientifico di origine italiana che insegna filosofia alla CUNY University, City College di Nuova York. Vale per tutti indipendentemente dell'autorevolezza. Due esempi di che non basta l'ipse dixit. Uno è James, che ha scoperto il grafene, che è un monostrato di carbonio, un atomo vicino a un altro atomo, che ha rivoluzionato la vita di oggi e che ha preso il Nobel. Ma ha detto anche questa grande cazzata per cui ha preso il Nobel. Ha dimostrato che le rane incinta possono volteggiare nel cielo. Insomma, e l'altro è Luc Montagnier, che influenzato da suo fratello ha creduto nell'omeopatia e addirittura si è permesso di portare al Papa dell'ananas, perché l'ananas avrebbe combattuto, in base a studi omeopatici, avrebbe combattuto il Parkinson del Papa precedente. Informazione, sappiamolo. Politica, legge. Le leggi ci sono, ma le facciamo in continuazione. Decreto legge, in aula, referendum. Dante Alighieri, in quel periodo abbastanza oscuro, dice, la stampa dà la notizia, il Consiglio dei Ministri delibera l'esclusione dalle scuole di tutti gli insegnanti ed alunni nati da genitori di razza ebraica. Caro Dante, le leggi razziali contro gli ebrei si sono invece applicate, un'eccezione, quelle si sono applicate perfettamente. Dall'uscita della legge, l'attuazione della legge è stata immediata. Un politico, questa è una cosa che tocchiamo tutti, non è un disprezzo, perché i politici ci rappresentano, non è che noi siamo meglio dei politici, però neanche ci osanniamo, e quindi non vogliamo che si osannino i politici. Allora, un politico pensa alle prossime elezioni, questo. Un uomo di Stato pensa alle prossime generazioni, questo. Ma alle prossime generazioni non ci pensa nessuno. Io vi confesso una confidenza personale, ho una nipotina che si chiama Giorgia in mio onore, ha 6 anni, hanno cercato di farle un fratellino che però non è andato bene. Io ho pensato che fortuna, perché non riesco a immaginarmi sulla base, e sono di carattere ottimista, anche quando perdevo a tennis pensavo di vincere, sono un carattere ottimista, pensavo cosa succederà in questo mondo. Che 80 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale abbiamo un pericolo di morte planetaria che è spaventoso e che aumenta di giorno in giorno. Siamo arrivati alla confusione totale. Ieri Netanyahu ha licenziato 5 collaboratori. Si spera in Trump invece che in quell'altro. Occupiamoci di cose nostre. Baruch vota il candidato, dice la regola di James Clark, un ministro, teologo e scrittore americano. Vota il candidato, nell'incertezza di non credere quasi a nessuno, vota il candidato che promette di meno, perché resterai meno deluso. Ma questa è una soluzione. Politici attuali, la prova che i veri statisti si sono quasi estinti. Se non combatti per porre termine alla corruzione e al marciume, finirai per farne parte. E questo riguarda tutti noi, perché tutti noi siamo in grado di essere, lasciarci corrompere, di non vedere delle cose che non vanno, di non denunciarle, di guardare soltanto chi l'ha visto, eccetera. John Bynes è una persona civile, a mio avviso, che si è comportata da civile, oltre che una intensa protagonista del canto. Il padre di John Bynes rifiuta di aderire alla faccia parte con Fermi del progetto Manhattan. Il padre della John Bynes ha rifiutato di far parte di questo progetto perché sapeva come andava a finire. Attenti a non buttarsi ad accettare il marcio, è contagioso. Cosa vuol fare? John Bynes rifiuta di partecipare perfino a esercitazioni militari per pacifismo perché non voleva che fossero diventassero un simbolo per la nuova generazione. Non basta denunciare la corruzione, bisogna combatterla. Tacito, 2000 anni fa, le leggi sono moltissime proprio quando lo Stato è corruttissimo e combatterlo è arduo e pericoloso. Ma facciamo altro che fare leggi. Più leggi facciamo, più significa che c'è corruzione, perché basterebbe come un interruttore, la vecchia radio, c'è l'interruttore, apri e chiudi, adesso c'è la sintonia, la voce, tutto diventa complicato. Una persona di normale cultura, che ha di vecchia generazione, non sa usare il cellulare, e anche quelli che lo usano, come è stato detto, lo sa usare poco rispetto a quelli che sanno usarlo. Il comunismo, dice John Fitzgerald Kennedy, primo presidente cattolico degli Stati Uniti, lo ricordo volentieri, nessun presidente cattolico era presidente degli Stati Uniti, tranne lui, dice: il comunismo non è mai andato al potere di un paese che non fosse smembrato dalla guerra o dalla corruzione, o da entrambe. Quindi il comunismo nasce perché c'è guerra e corruzione. E io mi sono permesso di correggere il giudizio di Kennedy, perché è conseguenza, non solo causa di nefandezza, è conseguenza delle nefandezze e dopo è anche causa di nefandezze. Ma le nefandezze c'erano anche prima del comunismo, prima che Marx dicesse che la religione è l'opio di popoli. Guerra e corruzioni presenti sia prima che dopo e prescindono ampiamente dal comunismo. Le guerre sono tragedie discontinue, ma la corruzione è un fenomeno costante, persino in tempo di pace. Non è che in tempo di pace la corruzione smette e siamo in pace perché abbiamo smesso di corromperci, no, continua imperterrita anche in tempo di pace, finché esplode il nuovo conflitto. Qui, per tagliare la serietà degli argomenti, vi faccio vedere l'invito che fa la Marilyn Monroe dicendo al suo John, con cui si vedeva nel fine settimana: John, non pensare al comunismo, vieni qua che te consolo io. Sincerità e onestà. Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre a distinguerla dal volto. La parentesi quadra, l'interrogativo è mia, perché non c'era nella frase di Dumas. Socrate, le parole mascherate infettano l'anima del male. Pirandello, vivendo si incontrano tante maschere ma pochi volti. Pensate che sono frasette semplici, facili da capire, ma quanto sono vere. anche nella nostra modesta vita. Maschera indistinguibile, quella dei grandi evasori fiscali. Quella è la maschera che non riusciamo a toglierla. È una maschera talmente ben fatta che, guarda caso, prima, dopo, centrodestra, sono lì e ci ridono. Alla faccia di Alexander Mann c'è l'altro che col sacchetto di tasse se ne va e continua ad andarsene. Ma però aumentiamo di 2-3 euro le pensioni. Menzogne, tipologia e diversa accezione. Jean-Jacques Trousseau. Impostura è quando si mente per tornaconto personale. Frode è quando lo si fa a vantaggio anche di altri. Calunnia, quando il solo obiettivo è nuocere al prossimo. Quindi ci sono varie gradazioni e varie eccezioni. E qui c'è una provocazione, questo è il Parlamento italiano, ma non è solo questo, vale il Parlamento europeo, vale l'America, vale tutto. Per chi vuole approfondire e trovare la definizione la più colorita delle menzogne, basta che vada in un Parlamento in generale e troverà esempi eloquenti di ogni tipo. Ma la popolazione non è del tutto esente, perché anche noi contribuiamo a questo tipo di cose, perché in fin dei conti eleggiamo, siamo noi che eleggiamo. Il problema è che eleggiamo noi chi? Noi il 30% del 50% che vota, ma vuol dire che il 60% e più per cento non sa niente, non legge, se non vota e se vota e se vota è ancora peggio, perché vota che cosa? Mentre se gli diciamo quanto prende Ronaldo giocando nel Qatar, sanno tutti anche la tredicesima di Ronaldo. La cradoneria è istintiva e vincente, ma se non si pensa continuerà così, perché non basta leggere qualsiasi cosa. C'è il botteghino lì del Frottole Confortanti, Comfort and Lies, e c'è la fila, perché ci danno delle idee confortanti che ci tirano su, ci fa sperare l'impossibile. Dall'altra parte c'è verità sgradevoli, non c'è nessuno che si sofferma a farsi insegnare. Questa, guardate, che invece che spiritosa è drammatica questa roba qua, perché succede esattamente così. Religione, fede, preconcetti. La religione è considerata come vera dalle persone comuni, dalle persone sagge come falsa e dai governanti come utile. Ma chi l'ha detto questo? Uno che scrive su Manifesto, un estremista, no? Lucio Anneo Seneca, il percettore di Nerone. L'ha scritto quando non c'era ombra né di comunismo, né di sinistra, né di destra, eccetera. Esigenza dell'uomo comune, se non pensa, che esista un essere superiore cui attribuire il mondo e il giudizio sulle vicende umane. Per i governanti, sempre utile comunque avere a fianco la religione. Lo dimostra il Gott mit uns, il partito di Dio, il popolo eletto. Qui abbiamo tre esempi. Questa qua, adesso se io riesco a tornare indietro, sì, eccolo qua. Il Gott mit uns del cinturone della Wehrmacht e dell'SS, Truman, che con la mano sulla Bibbia dava ordine di sganciare le bombe atomiche, che in un secondo avrebbero annullato una città intera. Bolzano ha 100.000 abitanti, Hiroshima aveva 100.000 abitanti. E poi questo qua, che ha diretto il KGB del Partito Comunista Russo, ha diretto il KGB, non era un funzionario qualsiasi, che adesso ha il cero in mano, si bacia con Cyril e Cyril dice che la guerra contro l'Ucraina è giusta perché ci sono gli omosessuali. Nei tempi antichi l'ignoranza dei comportamenti della natura induceva i popoli a inventare divinità che presiedessero ogni aspetto della vita umana. Questo l'ha detto quell'idiota di Stephen Hawking, che con quello che ha avuto è rimasto uno dei cervelli più grandi della storia della scienza. Ciao Paolo, grazie. Allora, Stephen Hawking, voi sapete, non ve lo dico, ma ha avuto tutto. Ha avuto una forma strana di paralisi neurologica, non poteva muovere, non poteva parlare, è stato tracheotomizzato, muoveva e si esprimeva soltanto muovendo le ciglia. Muovendo le ciglia hanno inventato un apparecchio elettronico, lui con le ciglia formulava le parole che erano tradotte dal... Bene, e questo dice, non c'è nessun Dio, ma non è un male crederci, ma essere almeno poi coerenti con quello che si crede. Buddha, non fisico ma mistico, non fidatevi dei vecchi manoscritti, ce n'è a iosa e alcuni uno contro l'altro. Non credete una cosa solo perché il popolo ci crede, influenzato sin dall'infanzia. Noi non siamo liberi e quando i genitori dicono anche, beh, mio figlio è così, quando sarà grande farà quel che lavorerà. Ma quando è grande è già formata, è già influenzata, è già improntata. Cardinale Carlo Maria Martini, un cardinale di grande prestigio e di grande cultura. Credenti o non credenti, lui a un certo punto prescindeva da questo concetto, un cardinale. L'importante è essere pensanti, che è un requisito per imparare a inquietarsi sul significato dell'esistenza. Non lo risolveremo mai, ma non possiamo neanche ignorarlo mai questo problema e domandarsi perché esisto, perché è bene fare il bene, perché è male fare il male, cosa si deve fare. Le religioni non riescono a unire nessuno, nemmeno i loro seguaci, anzi creano apartheid e discriminazione da cui nascono rivalità e competizione anche tra loro stessi. Questo è un dato di fatto, non è un attacco alle religioni. Cristianesimo, cattolici, ortodossi, evangelisti, ebraismo, correnti varie, islam, sciiti, sunniti, 30.000 religioni, dottrine, credenze, sette culturali nel mondo, in Italia ne vengono praticate ben 854 diverse, dati ufficiali. E sappiamo che con tutta questa invasione di religioni di vario tipo abbiamo avuto le crociate e le invasioni islamiche, abbiamo avuto il genocidio albigese e la lotta contro i catari, la guerra dei trent'anni protestanti verso cattolici, l'inquisizione e l'intolleranza assoluta e la cattiveria assoluta che si confronta con la parabola del figliol prodigo che ha sbagliato e per questo viene accolto con particolare benevolenza. Con l'inquisizione invece era un po' diversa. Potere e religione, quando c'è la possibilità c'è un unico in Isla, in Persia, nell'Iran, ma chi dirige? Lo dirige un religioso. E quando è possibile, i religiosi non soltanto sono affiancanti del potere, ma diventano essi stessi potere. Avete visto quella lì che adesso andrà morta, la ragazza che si è messa in mutandina reggipetto nuda a Teheran e che è stata picchiata subito dopo dalle donne col velo del regime, eccetera. Siamo, e noi dobbiamo mandare. È più facile disintegrare un atomo che demolire un giudizio. Sono discriminate le donne, a parità di ruolo, chi è nella professione, eccetera, la dottoressa Trevisan potrebbe anche documentare, a parità, salvo eccezioni, guadagnano un 20-30% dell'uomo. Senso femminile, quindi il razzismo è quello che è, ci sarà sempre, ma se si è, con qualche eccezione, se si è campioni sportivi o persone famose, ogni pregiudizio svanisce perché basta avere schei. Eccoli qua. Beppe Vio è diventato addirittura promoter di problemi e sono contento. Jacopo Veglio che fa strappi il cuore, Elio Bosso ancora più, ha pianto sulla sua infermità fino all'ultimo, vibrando per la musica, e Andrea Zanardi l'abbiamo visto prima. Ricchezza e felicità. Le persone che si concentrano su quello che hanno, quelle infelici si concentrano su quello che manca. Questo è vero, è verissimo questo. C'è della gente proprio ottimista di natura e della gente pessimista di natura. Qualsiasi cosa succeda, non sono disposti a cambiare. La felicità è desiderare quello che si ha. Lo diceva anche Sant'Agostino. Sant'Agostino, che vi ricordo, è stato a un certo punto messo sotto torchio perché ha fatto la famosa frase «Dio mio, riguardo la sessualità, dammi la santità, ma non subito». E quando io ho detto questa frase a Renner, Renner ha detto «No, non posso crederci, vai a consultare». Renner ha consultato, Sant'Agostino voleva non subito, cessare subito. Un mendicante sano è più felice di un re malato. Questa tazza calda non me l'aspettavo, sono felice. Questa è un mendicante, la fotografia di un mendicante nel quartiere più povero di Londra, dove ho vissuto per parecchi mesi, e questo è il re, che quando è diventato re, subito dopo gli hanno scoperto il cancro, e sua moglie anche. No? E allora dice, me l'aspettavo questo, ma non questo cancro, ora capisco l'infelicità, perché prima non la capiva di sicuro, e si curava anche lui con le medicine alternative. Confronto forzato di Schopenhauer, improbabile per un mendicante essere sano e felice, ma il concetto è ineccepibile. Nella vita il denaro è la cosa più importante, non è la cosa più importante, ma la sua mancanza ti impedisce di occuparti di cose più importanti. Chi ha i problemi del pane non può permettersi quelli dello spirito. Dante, infatti, non fosse a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Ma, facile a dirsi queste cose, l'acquisto di un libro dal prezzo anche di pochi euro, il mio per esempio, risulterà inaffrontabile per molti pensionati e lavoratori a reddito basso e che non prevedono spese per la conoscenza. Questo è grave, io vi giuro, vi dico la verità, a parte che non lo devo neanche dire, ma insomma, do tutto in beneficenza, a sé decidere, ma questo è vero. Un pensionato come fa a spendere 25-50 euro per anche che volesse istruirsi, volesse leggere di più? Fa fatica a comprare le mele, fa fatica a comprare le anguri. Guerra e pace. Ma non dovrebbe bastare all'Homo sapiens per dire basta guerra? Occorre che facciamo altre guerre, occorre che facciamo morire bambini, madri, vecchi, tutti quanti. Quando una fotografia del padre che è già monco di un arto, che solleva il bambino privo di braccia e gambe, e il bambino lì sorride, felice solo di avere un papà che lo prende fra le dita. Questa qua, se il mondo fosse civile, il mondo occidentale civile, il mondo grande civile, questa è la verità. Se non basta una foto così, non basterà niente altro. Nello sport si vince senza uccidere, in guerra si uccide senza vincere. Chi l'ha detto? Simon Peres, uno degli illuminati politici israeliani che io ho incontrato per caso, no? Ero con lui, eravamo a Parigi e lui aveva un incontro da fare col presidente della Repubblica Francese. Simon Peres. Ho visitato più volte il sacrario di Re di Puglia. 100.000 morti su questa grande scalinata, ogni scalino ha il nome del decreto, però non tutti gli scalini hanno un nome, perché sugli ignoti sono 60.300 piastre, c'è scritto soltanto presente, perché non siamo neanche riconosciuti chi era il morto. 100.000 persone sono la popolazione di Bolzano. Passano un po' di tempo, quella era a prima i cuori, si apre uno spiraglio di civiltà, di mente aperta. È Clinton che fa stringere la mano ad Arafat e a Rabin, ma c'era dentro anche Simon Peres, e stipulano un accordo di pace. Quindi tutto finito, siamo nel 1993, 2003, 20 anni dopo, siamo in una situazione in cui non c'è paese dell'area medio orientale che non sia coinvolto in una guerra. La guerra non si può umanizzare, dice Einstein, che non era certamente uno stupido, convinzione di una minoranza di filosofi e persone illuminate, impotenti verso la maggioranza che è miope e irresponsabile. È vero che noi possiamo fare poco, ma almeno renderci conto di cosa viviamo. Non consapevole la maggioranza delle popolazioni incolte e intenzionalmente distratte, poco incline a pensare, ma resteranno incolte. Einstein, guerra sempre disumana, andrebbe abolita, anzi nemmeno iniziata. Ma queste sono parole al vento, come dice un libercolo che ho fatto con Frangipane per illustrare le sue vignette molto efficaci sempre. Einstein, ho subito finito, Einstein inascoltato più che mai. Dopo quello che ha detto e che dovrebbe essere ascoltato, perché insomma la vita che ha dimostrato, quello che ha scoperto, il contributo scientifico, umano, eccetera. Io ho parlato nell'università che era sua, ero commosso di parlare a Ulm, la città che gli ha dato i natali. Bene, siamo arrivati a questo punto. I dati diffusi in agosto 24, russi 100.000 morti e 170.000 feriti, ucraini 70.000 morti e 100-120.000 feriti. Nella striscia di Gaza 40.000 morti civili, morti tra combattenti israeliani e Hamas non si sa. Dati approssimati in continua evoluzione, sono peggiorati notevolmente da quando io ho fatto la diapositiva. Ecco qua, guardate questa zona qua, questo è Israele, e intorno avete il mondo, l'Egitto da una parte, l'Iraq appena lasciata, l'Iran è lontana, si sparano come con la cerbotana, sparano le robe da una parte all'altra, in obiettivi mirati, si uccide all'interno di palazzi. Conclusioni, c'è sempre da imparare in ogni campo, ma quindi dall'amore alla politica, alla guerra, ma bisogna volerlo, e per volerlo bisogna leggere, perlomeno ascoltare, pensare a quello che si sente o che si legge, ricordare, perché sennò come mio papà non ricordava, cambiare quando occorre, ma cambiare con buona fede. Non è importante se io pensavo una roba, sono disposto a cambiare in base ai dati. Cambiare quando occorre buona fede, insegnare questo ai nostri figli. Spes ultima dea, pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà. È l'unica frase che lascia aperti il cuore alla speranza, l'ottimismo dell'intelligenza. E questa, per concludere, questo era un super quark del 2012 in cui Piero Angela, che mi aveva invitato per una parte della trasmissione, mi diceva: Giorgio, sono convinto che dagli altri c'è sempre da imparare. E questo ha ricavato anche il titolo del libro, c'è sempre da imparare. Perché non scrivi un libro? E gli ho detto: Piero, condivido ciò che dici e se mi dai un po' di tempo ti ascolto e lo faccio. E ho fatto un po' di libri col titolo che mi aveva suggerito Piero Angela. Vi ringrazio. Bravo. Grazie a te. Nelle librerie c'è anche... Sì, sì, sono sempre un po' stitiche le librerie a ordinare, perché vogliono essere pagati in anticipo, se no non mandano il libro, e allora qualche casa editrice non lo fa. Però sì, Capelli dovrebbe farlo. Grazie ancora. Grazie.